La da da di da da da da. La da da di da da da da. La da da di da. Definitely the key, like boys to men. I'm on bended knee, loving you, not like your brother. Oh yeah, wanna be your lover.